Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat, eccoci di nuovo ed eccovi soprattutto di nuovo qui con Nervature, come ogni lunedì alle 19 circa. Io sono qui, Addu, oggi con voi ad accompagnarvi per un'oretta e mezzo, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno, ma prevedo di più in questo caso. Oggi quindi è lunedì 20 gennaio, direi che questo nuovo anno è partito bene, sta tutto proseguendo nella norma per quanto riguarda Nervature, appunto. Trasmissione che tra l'altro, come forse già sapete, vi parla di piante, botanica, giardinaggio, progettazione e natura in generale, dipende un po' dalle volte. Allora, oggi sono con... scusate, sto... ecco, mi sto ancora regolando i microfoni, i volumi, ma ci sono. Quindi, appunto, oggi sono contenta perché, nonostante sia da sola in regia, il che, devo dire, è un pochino triste, però va bene lo stesso, ma sono contenta perché riprendiamo insieme il filo conduttore che già avevamo aperto insieme dell'abete rosso. Allora, penso sia stato 2 o 3 settimane fa, non so più, ho fatto appunto una puntata riguardante l'abete rosso da vari punti di vista e oggi la riprendiamo perché l'altra volta, nonostante fosse durata ben 2 ore, in realtà avevo tante altre cose da portarvi e da dire, quindi oggi concludiamo. Quindi per rifare magari un po' un sunto giusto degli argomenti di cui abbiamo parlato la scorsa volta, vi ho parlato della pianta in sé, quindi che caratteristiche ambientali, botaniche ha, come potete riconoscerlo, dove potete trovarlo. Sempre su questa scia poi mi sono fatta aiutare dalla splendida Erika che in un'intervista che avevo registrato ci ha raccontato e ci ha, devo dire, illuminato per quanto mi riguarda, a proposito degli usi di questa pianta, quindi usi commestibili, usi terapeutici e addirittura dandoci una ricetta incompleto, ma in realtà tantissime altre, un po' più appunto senza magari le dosi e senza i numeri precisi. Dopodiché siamo passati invece a un, vi ho rimandato un podcast di Mancuso nel quale lui parlava ovviamente sempre dell'abete, ma di un tipo particolare di abete, di una varietà specifica, che è quella che serve a ricavare il legno di risonanza, cosiddetto, perché è quello da cui si fabbricano violini e altri strumenti a corda. Da qui abbiamo introdotto il grande argomento che oggi infatti continuiamo della tempesta, che in realtà anzi è stato un uragano, di Vaia, che è avvenuta nell'autunno del 2018 in Italia, nel nord, quindi su tutte le Alpi, soprattutto sulla parte ovest, ma insomma praticamente ovunque. E quindi tempesta la quale ha provocato dei danni enormi, come abbiamo visto, ha veramente raso al suolo letteralmente, cioè ha proprio buttato giù migliaia di pecci, quindi di abeti rossi, e proprio spolverando praticamente ettari e ettari di bosco. A seguito di questo, quindi anzi, ricapitolando, quindi tempesta che si è abbastanza appurato avere cause molto collegate al cambiamento climatico e al riscaldamento globale in particolare, tempesta però che si diceva che ha poi provocato non solo quei danni nell'immediato, ma un danno che sta ancora perdurando oggi, ovvero quello della piaga del bostrico. Il bostrico è un insetto, un coleottero, che mangia il legno morto o il legno in condizioni di stress, quindi di piante stressate. E quindi sia con gli alberi che sono stati buttati giù dall'uragano Vaia, che quindi ovviamente erano molto stressati o addirittura morti alcuni, sia con in generale tutti i danni a alberi che sono rimasti su in piedi, ma insomma comunque hanno subito gravi danni, il bostrico ovviamente è dilagato e quindi sta, come dicevo, continuando a essere un problema molto molto molto serio. Fino a oggi infatti si stima addirittura che i danni da bostrico siano pari a quelli avvenuti da Vaia, quindi si misura in massa di legno abbattuto, siamo arrivati ormai al pari, anzi sta già superando ormai questa piaga, che non si sa bene come risolvere, e proprio perché ormai è così diffuso il coleottero, perché le condizioni ambientali nel quale si sta diffondendo sono completamente, completamente squilibrate. Questo era un po' per riassumere, ma direi magari vi metto un primo pezzo musicale, giusto perché già finora ho parlato anche troppo tutto di fila, direi. Quindi sentiamoci insieme un pezzo e poi si riprende insieme tutti questi argomenti. Anna bello gianca bomba no malfrutti. Quanti hai ambedu ma darà. Anna bello gianca bomba no malfrutti. Quanti hai ambedu ma darà. You amminata. Sumanyo wesen kar zayi dakuma Ed eccomi quindi ritornare qui in voce e qui con voi su Nervature, su Radio Wombat, l'unica radio libera e autogestita di Firenze. Ci potete ascoltare dalle frequenze AM alle 13.59 nell'area fiorentina e dintorni, altrimenti su streaming dal sito radiowombat.net, dalla sezione streaming, la quale sezione presenta anche il link da cui potete accedere al pad. Il link è diretta@wombat.vado.li e il pad è il foglio di testo condiviso che utilizziamo e soprattutto utilizzate per parlare con noi in diretta e non. Io oggi non sono in diretta, sono registrata, ma non esitate comunque a scrivere sul pad domande, riflessioni, saluti semplicemente, infamie, qualsiasi cosa. E io tanto lo leggerò nei prossimi giorni e potrò rispondere le volte successive di Nervature. Allora, quindi dicevo che anche oggi vorrei parlare di abete rosso, ovvero di Picea habeas, questo è il suo nome scientifico che ci serve giusto per non sbagliarci. Possiamo comunicare con tutto il mondo dicendo Picea habeas e sappiamo di cosa parliamo. Abbiamo già visto quindi la biologia, abbiamo visto gli usi, abbiamo visto un uso particolare che è quello della costruzione dei violini, abbiamo visto la tragedia dell'uragano Vaia che c'è stato nel 2018 nel nord Italia, che ha abbattuto una quantità incredibile di pecci, quindi appunto abeti rossi è lo stesso, è un sinonimo. Quindi abbattuti addirittura 45.000 ettari, ovvero 12 milioni di metri cubi di legno durante la tempesta. Questa tragedia però purtroppo non si è terminata lì perché, come dicevamo, a seguito di questa tempesta è dilagato un grosso problema che è quello del bostrico, ovvero un coleottero, un insetto che mangia il legno dell'abete rosso. Non solo dell'abete rosso, ma praticamente solo, cioè è il suo cibo preferito, possiamo dire. Il bostrico è un coleottero, appunto, in realtà endemico dell'Italia, quindi c'è sempre stato qui da noi, e è presente sempre nei nostri boschi, soprattutto un po' più alpini, e in realtà è un insetto molto utile. È un insetto utile perché, essendo appunto un rodilegno, in particolare però specifichiamo un insetto che mangia legno stressato o morto, anche già morto, si chiama un insetto di regolatore, ecco, un insetto regolatore, proprio perché all'interno di un bosco serve anche la parte di servizio ecosistemico, diciamo, che degrada il legno. Questo ovviamente non viene fatto solo dagli insetti, viene fatto da tantissimi animali grandi e piccoli e tantissimi esseri in generale, per esempio funghi, che proprio vanno pazzi per il legno e in generale per tutto il materiale morto. Questi sono una parte della vita sulla Terra a dir poco fondamentale, come lo possiamo probabilmente tutte e tutti capire molto bene. Se un essere vivente muore, c'è bisogno che poi qualcuno lo processi, che qualcuno lo rimangi e quindi lo faccia reintegrare nel ciclo della catena alimentare fondamentalmente, e quindi rientrare in un altro essere vivente che poi rimorirà e rientrerà in un altro essere vivente, e così via, e così via, e così via. E noi stessi siamo vivi grazie a questo anche. Quindi in questo caso, per noi esseri umani soprattutto e per i poveri pecci, il bostrico è diventato un problema, ma in condizioni normali, ovvero di maggiore equilibrio, questo problema sarebbe decisamente, decisamente minore. A proposito di questo, diciamo, allora vi introduco un po' come si svolgerà la puntata di oggi. Un po' come l'altra volta, vi racconto, vi porto un po' di estratti, letture, contributi in generale, riguardo, come si è detto, sempre all'abete rosso, partendo quindi dal proprio dal bostrico, quindi come stavo già facendo, analizzando un po' più nello specifico la questione del bostrico, per poi parlare invece di come si è agiti un po' a seguito della tempesta, quindi tutti i cantieri come sono andati avanti, come si sono svolti, quali problemi gravissimi ci sono stati, per poi appunto riparlare e diciamo rilassarsi un po' sul finale, e vi porto un po' di altre letture, un po' di altri così informazioni, racconti più che altro, sempre riguardo al Peccio, appunto. Faz mal, todo dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, todo tempo, cada dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, cada dia santo que não faz mal, todo tempo, reza pro seu santo, meu irmão, sempre vão buscar a proteção. Leva sempre o bem no coração, que andar sozinho não é bom não. Todo dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, todo tempo, cada dia santo que não faz mal, todo dia santo que não faz mal, cada dia santo que não faz mal, todo tempo, como disse o Gil numa canção, que com fé costuma vai a não, deixe esse sorriso te levar, olho grande pro lado de lá. Quindi quella che vi leggo adesso è un estratto di, quindi una lettura dal libro Sotto Corteccia, che è un libro scritto da Luigi Torreggiani e Paolo La Casella. Paolo La Casella è antropologo, Luigi Torreggiani invece tecnico forestale e anche giornalista, che hanno scritto insieme questo libro, in particolare a proposito del bostrico. È un libro molto divulgativo, perché raccontano in modo, appunto, come se fosse un racconto, il modo in cui loro sono piano piano arrivati a conoscenza di tutti gli aspetti riguardanti questo coleottero, questo insetto. Loro infatti, come forse avete già capito, appunto ci tengono molto alla divulgazione, tant'è che scrivono tanti anche articoli su giornali online e non. Quello che vi leggo quindi è un dialogo che loro riportano tra, tra Luigi, ecco, e Torreggiani, e Francesco Parisi. Francesco Parisi, che è uno scienziato forestale, che si occupa soprattutto di insetti saproxilici. Praticamente sarebbero gli insetti che si occupano proprio di legno morto, quindi di mangiucchiare questo legno morto, e quindi ovviamente il bostrico fa parte di questi. Allora, quindi mi appropinco alla lettura e parte appunto con le parole di Francesco Parisi. Quelle che ogni anno andiamo a esplorare e studiare sono foreste rarissime in Europa, tra le poche rimaste indisturbate, perché lontane dai centri abitati e molto difficili da raggiungere. Sono ambienti davvero affascinanti. Ogni forestale dovrebbe visitarle almeno una volta nella vita, perché osservarle ti cambia, ti apre la mente. Si tratta di boschi misti, principalmente di abete rosso, abete bianco e faggio, insieme anche ad altre latifoglie sporadiche. La loro caratteristica principale, quella che più mi interessa scientificamente, è l'enorme presenza di legno morto, in varie forme e fasi di degradazione. Alberi morti in piedi e a terra, grandi tronchi o rami spezzati ovunque. In questo ambiente, così diversificato e ricco di habitat, convivono un'enormità di specie. Nei nostri studi il bostrico salta fuori soltanto dopo, insieme a decine e decine di altre specie, quando analizziamo con calma i campioni in laboratorio, una volta tornati a casa. Personalmente non ne ho mai trovati più di 10 esemplari nelle mie trappole, nonostante le raccolte siano svolte in boschi con alberi molto vecchi, spesso senescenti, che quindi potenzialmente potrebbero ospitare imponenti popolazioni di questo scolitide. Personalmente in quei boschi non ho mai trovato un solo abete attaccato massicciamente dal bostrico. Pensate che non ho trovato l'insetto nemmeno in abeti rossi da poco spezzati dalla neve pesante, un ambiente perfetto per il tipografo, che, come sapete, viene attratto dalle sostanze emesse dalle piante in difficoltà, come è accaduto dopo Vaia. Scusate, faccio una precisazione, qui si riferisce al bostrico parlando tipografo, perché il suo nome scientifico appunto è Ips typographus e è stato chiamato tale perché, forse si era già detto nella scorsa puntata, comunque perché quando si instaura all'interno della pianta e quindi poco sotto la corteccia, inizia a fare una serie di gallerie, a scavare proprio perché rosicchia e mangia il legno, quindi fa una serie di gallerie molto, devo dire, scenografiche, un po' a raggiera, una sorta di ragnatela, ora per semplificare. Comunque appunto con dei disegni molto molto molto caratteristici con i quali infatti si riesce molto facilmente a identificare la presenza di questo insetto. Quindi continua la lettura. Sempre Francesco Parisi, ecco, lo scienziato forestale, continua il suo discorso e dice: «Voi dite assassino, devastatore, ammazza abeti», parlando del bostrico, ma in realtà molto spesso in quegli ambienti il bostrico non arriva neppure a uccidere gruppi di piante, come accade invece sulle Alpi italiane. Quando la popolazione è a livelli bassi, come avviene nelle foreste naturali che ho l'opportunità di studiare, gli abeti vengono attaccati da pochi insetti e spesso riescono anche a difendersi. Ma il grosso lo fanno gli antagonisti naturali del coleottero. Altri insetti, funghi, uccelli, persino batteri, che non permettono alla popolazione di bostrico di esplodere. Nelle foreste naturali la diversità della struttura forestale e la varietà della biodiversità presente sono tali da garantire un equilibrio, cosa che invece non avviene negli ecosistemi semplificati. Anche qui mi intrometto di nuovo, quindi riprendendo anche quello che già l'altra volta si stava dicendo, in Italia, nelle Alpi, appunto il problema del bostrico è così grosso, così diffuso, proprio perché per due ragioni fondamentali. Una è... Oddio, scusate, ho toccato il cavo del microfono, non lo farò mai più. Dicevo, una è che ovviamente a seguito di Vaia, come si diceva, c'è molto più legno morto e quindi appunto un banchetto allestito per questo coleottero, ma l'altra è perché noi umani nel dopoguerra, quindi nel Novecento, a seguito sia dei disboscamenti, sia delle montagne rovinate proprio a causa della guerra, sia per appunto necessità nostra selvicolturale, abbiamo ripiantato delle intere foreste sulle Alpi, proprio ettari, ettari, ettari di foreste, facendolo purtroppo in monocultura e monoetà, ora c'è un termine più corretto, ora non mi viene, comunque fatto sta che abbiamo piantato soltanto Picea abies, quindi abeti rossi, pecci, e tutti nello stesso momento, quindi abbiamo adesso sulle Alpi, e stanno scomparendo però, queste foreste monospecifiche super diffuse, oltretutto tutte della stessa età, quindi gli alberi hanno tutti bene o male 70 anni o insomma anche di più forse, e quindi è proprio una foresta dove la biodiversità è molto bassa e è ovviamente lontanissima da quello che si potrebbe trovare invece in una foresta naturale, e è questo proprio quello a cui si riferiva la lettura che vi stavo facendo. Quindi continuo e Luigi Torreggiani controbatte e dice: ma allora a cosa diavolo serve questo bostrico? E gli risponde: potrei rispondervi che ogni singola specie presa singolarmente non serve a niente. È l'insieme che va a costituire un equilibrio ecosistemico. È l'insieme che si comporta come una specie di superorganismo che vive all'interno di una megalopoli, come ha scritto Stockland nel suo primo trattato sui saproxilici. Spesso la domanda «ma a cosa serve?» viene posta rispetto ai parassiti, perché in qualche modo a noi ci disturbano o rovinano le nostre coltivazioni. Questo è un modo di vedere le cose ovviamente antropocentrico. Dal punto di vista dell'ecosistema, ogni organismo ha un compito, non ci sono buoni e cattivi. Il bostrico è richiamato dagli abeti in difficoltà e opera, da solo o in compagnia di altre specie, iniziando una fase che porterà le piante colpite in modo repentino oppure lento a deperire e poi a morire. Dove una pianta muore, nel bosco entra nuova luce, e dove c'è luce i semi possono germinare. Nel frattempo, il legno dell'abete morto, attaccato da tantissimi altri organismi, viene degradato fino a ridiventare terra, humus, substrato fertile, che mantiene in vita la foresta. Quindi no, non è un assassino. O almeno, se proprio così vogliamo chiamarlo, allora per correttezza dovremmo dire che il suo agire pone anche le basi per la rinascita del bosco. Quindi un assassino a fin di bene? Meglio chiamarlo e studiarlo così com'è, un elemento naturale dei nostri ecosistemi, un coleottero scolitide che si è evoluto insieme all'abete rosso e che oggi sta esplodendo in Europa per cause del tutto antropocentriche. Quindi la semplificazione degli ecosistemi da un lato e la crisi climatica dall'altro. Da qui si deve partire per comprenderlo, per gestirlo, per immaginare soluzioni attraverso approcci diversi dal passato. Assim não dá. Mind. E quindi questa lettura mi sembrava particolarmente interessante perché quello che penso è che, un po', ecco, un po' come la lettura diceva nelle ultime frasi, nella natura non c'è mai un buono o un cattivo. Ora, tralasciamo gli esseri umani in questo discorso magari, ma di tutto il resto vorrei parlare. Non c'è mai un buono o un cattivo, tutti gli organismi sono necessari alla vita, fanno parte della vita e della morte, perché vita e morte in realtà si sovrappongono in continuazione, sono in realtà due facce della stessa medaglia, se non proprio la stessa faccia, e quindi è sempre, secondo me, molto utile. Per noi umani magari difficile, ma con un approccio un po' più analitico forse si riesce a fare quello di analizzare gli organismi da un punto di vista dell'ecosistema, quindi qual è il loro ruolo in questo ecosistema, perché loro riescono a vivere in questo modo e quali altri fattori, in realtà non solo anche ambientali, quindi magari anche fisici e non solo riguardanti gli esseri viventi, portano appunto alla loro dispersione, ecco, e proliferazione nel nostro mondo. Ecco, questo è un po' un approccio che mi piace di solito avere. E, una cosa che penso infatti avvenga in continuazione è che noi esseri umani, per quanto si dica che siamo intelligenti, per quanto si dica che studiamo tanto e che abbiamo scoperto tante cose, credo che nell'ambito biologico appunto in realtà se proprio si vuol dire, forse abbiamo scoperto un 1% di quello che realmente è presente nel nostro mondo. E mi riferisco soprattutto, come dicevo, alle relazioni tra esseri viventi, quindi relazioni buone e cattive, fra virgolette, cioè di aiuto reciproco, ma anche di competizione, quindi tutto questo, questa grande sfumatura, no? All'interno delle relazioni fra gli esseri viventi è quella che poi va a creare effettivamente l'ecosistema, insieme chiaramente a tutti gli altri materiali, anche la roccia, anche il vento, anche l'acqua, ovviamente anche non solo gli esseri viventi. A proposito sempre quindi di questo approccio ecologico, lo chiamerei, vi leggerei un altro articolo molto calzante al riguardo, che parla, paradossalmente l'ho trovato anche un po' buffo portarlo qui a Nervature, proprio perché in questo argomento di questa puntata, proprio perché appunto si tende a infamare tantissimo il bostrico perché a noi esseri umani ci sta portando dei gravi danni, ma invece ad altre specie sta portando delle grosse facilitazioni. E qui sto parlando in particolare del picchio nero, quindi direi che mi appropinquo, ecco, a leggervi questo articolo e così direi, oddio, ho ritoccato il cavo, niente, non ci si può fare niente. E quindi vediamo insieme come il picchio nero rientra in questa vicenda. Allora, questo è un articolo del giornale ildolomiti.it, non so se è un giornale anche cartaceo, sinceramente io lo consulto dal web. Articolo del 13 dicembre intitolato una potenziale trappola ecologica per il picchio nero. A maggio 2024 il 60% della popolazione nidificava su alberi infestati dal bostrico. È quanto emerge da un recente articolo che mette in luce i primi risultati di un progetto pluriennale di monitoraggio dell'avifauna nidificante nato dalla collaborazione tra Muse, Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e Università di Studi di Milano. Oddio, qua mi ripeto, scusate, studi di Milano. Ecco, vista l'importanza dei tronchi infestati per picchi neri e altre specie nidificanti, grazie alla collaborazione con l'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali è stata avviata nella foresta di Paneveggio una fase di sperimentazione che prevede l'individuazione, la marcatura e la tutela degli alberi bostricati con cavità. I disturbi naturali su vasta scala, come incendi, tempeste di vento ed epidemie, sono tra i principali fattori che influenzano composizione e struttura delle foreste temperate. Il 29 ottobre 2018, vaste porzioni delle foreste del nord-est italiano furono distrutte dalla tempesta Vaia. Scusate, io prima all'inizio della puntata avevo detto ovest, ma nella mia mente intendevo est. Vabbè, comunque, quindi nord-est delle Alpi italiane. Quindi come conseguenza diretta si è poi assistito alla rapida diffusione del bostrico tipografo, ovvero Ips typographus, trasformatasi negli anni successivi in epidemia, grazie al susseguirsi di inverni miti e primavere ed estate calde e secche. Anche qui mi rinserisco un attimo, si era detto nella scorsa puntata, ma ci tengo a ripeterlo, un'altra in realtà delle ragioni che oggi non avevo recitato, lo faccio ora, per cui appunto il bostrico si sta diffondendo così tanto, è di nuovo, eccolo qua, di nuovo il nostro bene caro riscaldamento globale. Perché? Perché il bostrico era abituato a stare a temperature più basse, ovvero quelle dove appunto i pesci di solito crescono e vengono piantati, ma invece adesso si sta riscaldando tutto il clima e questo favorisce veramente molto il bostrico, perché banalmente riesce a fare due cicli all'interno dello stesso anno. Quindi significa, io femmina madre di bostrico depongo le uova si schiudono, creano delle larve che mangiano il legno, lo mangiano finché non passano, non fanno la metamorfosi, passano di nuovo alla fase di insetto maschio o femmina a seconda dei casi, che poi si riaccoppia e di solito in condizioni normali alla fine di questo ciclo è di nuovo inverno, e quindi con l'inverno, con le temperature fredde, il bostrico non fa niente, va diciamo a riposo. Invece ora che tutte le temperature si sono alzate, l'inverno non è più freddo come prima, in generale temperature appunto più autunnali o estive si prolungano molto a lungo appunto, il bostrico riesce a fare due generazioni in un anno. Cioè due cicli insomma in un anno, quindi poi l'insetto, la larva che ridiventa insetto adulto ha tempo di rideporre le uova che si rischiudono in larve che rifanno tutto questo ciclo, quindi è un raddoppio nudo e crudo della potenza alla fine di questo insetto rodiligno. Sempre a proposito del cambiamento climatico, del riscaldamento delle temperature, c'entra perché l'abete, il peccio appunto, anche lui soffre di questo riscaldamento globale, perché è sempre stato abituato a temperature più basse, adesso invece ci sono temperature più alte, quindi la pianta nel suo complesso è molto più stressata di quanto era una volta, e questo ridaglia di nuovo, favorisce il bostrico perché avrà meno impedimenti, insomma, quindi tutto un bel minestrone di caldo e con cause. Dunque, allora, proseguo quindi nella lettura dell'articolo, scusate questo inciso. Quindi, in questo contesto estremamente dinamico, introducono Chiara Bettega e Luigi Marchesi del Muse, prima autrice e primo autore dell'articolo, comprendere gli effetti nel tempo di questo tipo di eventi sulle comunità biologiche degli ecosistemi forestali e degli ambienti ad essi legati è essenziale, sia per indirizzare le nuove modalità di gestione delle aree interessate, sia per favorire la ripresa delle foreste, anche in termini produttivi e paesaggistici, così come il mantenimento di elevati livelli di biodiversità. Negli ecosistemi forestali il ruolo degli uccelli come indicatori biologici è determinato dall'azione che esercitano sulla struttura e funzione del bosco in quanto dispersori di semi, impollinatori, predatori e o prede e ingegneri ecosistemici. Quest'ultima azione, quella di ingegneri ecosistemici, svolta soprattutto dai picidi attraverso la costruzione di cavità che vengono poi utilizzate da molte altre specie, sia di uccelli come il picchio muratore, le cince, è particolarmente rilevante soprattutto la sempre più rara civetta da civetta a capo grosso, che anche di chirotteri e micromammiferi, ad esempio il ghiro e lo scoiattolo, e insetti sociali come le api. Quindi è particolarmente importante nelle foreste alpine, dominate dalle conifere, che normalmente non dispongono di cavità naturali derivanti dalla decomposizione del legno. Quindi, insomma, questa funzione ecosistemica di ingegnere ecosistemico, svolta per esempio dai picchi e dagli altri animali qui riportati, è appunto molto molto importante. In particolare il picchio nero è specie prioritaria, quindi appunto, in quanto scava le cavità più grandi rispetto a tutti gli altri animali citati. Prima della tempesta Vaia si era registrato un sensibile miglioramento delle tecniche di gestione forestale, con il mantenimento in molte aree, di elementi chiave dell'ecosistema che ne favoriscono la ricchezza e la biodiversità. Ma l'emergenza creatasi dopo il 2018, quindi dopo l'uragano Vaia, ha messo in discussione tali pratiche. L'enorme quantità di legno morto a terra e la necessità di rimuovere il più velocemente possibile le piante infestate hanno portato ad un'intensificazione dell'attività e il ricorso a tagli rasi. A seguito di Vaia e dell'epidemia di bostrico, nel 2022 è iniziato, grazie alla collaborazione tra il Muse, il Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino e l'Università di Studi di Milano, un progetto pluriennale di monitoraggio dell'avifauna nidificante nelle aree del parco interessate dalla tempesta, che prevede di marcare nuovi siti di nidificazione. Si tratta dell'evoluzione del progetto di conservazione avviato nel 2007 dal Muse e dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento per identificare alberi con nidi di picchio, in particolare picchio nero, e marcarli con una P rossa, in modo da preservarli dal taglio, una lettera scarlatta che aveva portato alla marcatura e salvaguardia complessiva di 2.500 alberi in tutto il territorio provinciale. Il 50% degli alberi marcati pre-Vaia è stato distrutto dalla tempesta. Di fronte a ciò, spiegano autrici e autori, evidenziando i primi risultati del nuovo progetto in corso, la popolazione di picchio nero ha risposto approfittando dell'epidemia di bostrico e costruendo nuovi nidi su piante parassitate. A maggio 2024 il 60% della popolazione riproduttrice nidificava su alberi infestati. Si tratta però di una potenziale trappola ecologica. Infatti, l'esbosco totale di alberi bostricati sta progressivamente rimuovendo tutti i siti riproduttivi di questa specie. Grazie alla collaborazione con l'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali è stata quindi avviata una fase di sperimentazione nella foresta di Paneveggio, che prevede l'individuazione e marcatura di alberi bostricati con cavità di picchio nero, nonché la marcatura di gruppi di 20-30 piante attorno a tali alberi. Questi gruppi di piante saranno preservati dal taglio e si spera che potranno garantire la disponibilità di siti di nidificazione per il picchio nero, le altre specie di picidi presenti e le specie nidificanti secondarie per gli anni a venire. Ecco, questo è quanto, questo era appunto l'articolo dal giornale Il Dolomiti. Appunto lo reputavo interessante perché un'altra faccella medaglia, insomma, di tutta questa faccenda. Ci tengo, forse un po' scontato, ma mi preme dire che, come può essere successo per il picchio nero, che ha trovato una situazione più favorevole in queste condizioni dilaganti del bostrico, quindi tutto questo legno morto, chissà quante altre specie hanno trovato allo stesso modo condizioni ideali. Chissà quante altre invece al contrario sono state invece hanno subito dei danni da questi avvenimenti. tutto questo comunque sempre, lo dico sempre nell'ottica di provare il più possibile a avere una mente aperta, sempre meno antropocentrica se si può, e per cercare di piano piano rendersi conto sempre meglio di tutti, e dico davvero tutti, i fattori esistenti in un certo ambiente, in un certo ecosistema. Direi che è il momento per uno stacco musicale, anche se in realtà un bel po' di tappetino l'avete sentito anche fino ad adesso, ma vi manderei quindi un brano, Yiri Yiri Boom. Yiri Yiri Boom, Yiri Yiri Boom. Come también, si no vacilo, se come también, que para gozar. Iriribo, iriribo, iriribo. Vacilo, se come también que para gozar. Iriribom, iriribom. Thank you. c'est comme tant bien, sinon vacillon, c'est comme tant bien, que paragosa, iriribom, iriribom. Thank you. E quindi vi ho fatto sentire due brani, Yiri Yiri Boom e Canto alla Vuelta Barrera, come forse potevate intuire già dalle parole delle canzoni. Quindi parlavamo del picchio nero, del fatto che è molto favorito in realtà da questa eccedenza enorme di legno morto nelle Alpi italiane, e proprio perché il picchio, come sappiamo tutte e tutti, fa le buche nei tronchi, quei bei tondini, quei buchetti tondi dove si rifugia. E per questa sua funzione all'interno del bosco è chiamato ingegnere ecosistemico, proprio perché è uno dei pochi, diciamo, animali che modifica, proprio come se fosse appunto un muratore o un costruttore, la struttura del bosco a proprio favore, non solo al proprio favore, come si è visto, perché poi le costruzioni, diciamo, questi buchi nei legni che fa, poi vengono riusate da un sacco di altre specie. Allora, adesso, sempre per rimanere sulla questione legno morto e viva legno morto, che brutto, questa dualità, diciamo, di condizioni, vi leggerei invece un altro articolo un po' più lunghetto, scritto dal WSL, ovvero Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che parla di come sono state gestiti i boschi della Svizzera, in questo caso, a seguito dell'uragano Lothar, che è avvenuto nel 1999, quindi ben 26 ormai anni fa, a dicembre, quindi sì, direi precisamente 26 anni fa, che ha causato dei danni che vaia in confronto era giusto uno starnuto, ecco. Non solo in Svizzera, in praticamente tutte le foreste dell'Europa centrale. Vi ricordo però, prima di iniziare, di addentrarci in questa lettura, che siamo sempre su Radio Wombat, ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete fare un sacco di cose, potete ascoltare lo streaming, potete scriverci alla nostra casella di posta, posta wombat@insiberia.net, potete scriverci anche in un altro modo, ovvero sul pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per parlare con voi in diretta e non. Potete ascoltare tutti i podcast di tutte le puntate che pubblichiamo e andare addirittura a spulciare i vecchi archivi, quindi le puntate più vecchie, e potete soprattutto condividere la radio, condividere i podcast, condividere il link per lo streaming, condividere le frequenze, che sono 13.59 delle AM, per ascoltarci e far sapere a tutte e tutti i vostri amici che noi ci siamo e siamo sempre qui a presidiare Firenze. E allora addentriamoci quindi in questo articolone. 25 anni dopo Lothar, come l'uragano ha riorganizzato la foresta. È scritto il 18 dicembre scorso, quindi comunque molto molto attuale. Quindi la mattina del 26 dicembre del 99 l'uragano Lothar si è abbattuto sulla Svizzera e ha scaraventato a terra circa 14 milioni di metri cubi di legno, tre volte il tasso di abbattimento annuale. Gli esperti del WSL, W in realtà SL, rispondono a numerose domande sulla situazione della foresta a 25 anni di distanza. Come dicevo, in realtà Lothar si è abbattuta su tutta l'Europa, creando veramente un disastro ecologico. Allora, quindi, quanto è stato cattivo Lothar per la foresta svizzera? è stata di gran lunga la più grave tempesta invernale in Europa e in Svizzera in termini di danni alle foreste. Solo in Svizzera ha abbattuto 14 milioni di metri cubi di legno, come dicevamo. Si tratta di quasi tre volte la quantità di legno che viene abbattuta in Svizzera ogni anno, ovvero circa 350.000 camion. Ecco. È stato terribile per l'industria della foresta e del legname. 17 proprietari di boschi hanno perso la vita durante i pericolosi lavori di disboscamento, oltre a 2 persone impegnate in operazioni forestali pubbliche. I prezzi del legname rotondo sono scesi di circa un terzo a causa dell'eccesso di offerta nella primavera del 2000. La maggior parte dei danni si è verificata sull'altopiano centrale. La tempesta ha imperversato soprattutto nelle foreste utilizzate principalmente per la produzione di legname, ma anche nelle foreste ricreative vicino ai centri urbani. I boschi di protezione hanno subito gravi danni nella Svizzera centrale, dove è stato distrutto fino al 25% dei boschi di protezione. Negli anni successivi, soprattutto dopo l'anno caldo del 2003, la propagazione di massa dei coleotteri ha aggiunto quasi 2/3 del legno danneggiato rispetto alla tempesta stessa. Quindi ecco, un po' quello, anzi, proprio pari pari quello è successo anche con Vaia qui in Italia. I ricercatori forestali del VSL hanno tratto le seguenti conclusioni dalle loro osservazioni a lungo termine. Come si sono sviluppate le aree di tempesta? In molte grandi aree colpite dal vento sono ricresciuti alberi alti in media dai 10 ai 20 metri. Nell'altopiano, però, a seconda delle caratteristiche del suolo e della vegetazione iniziale, ci sono anche aree in cui i rovi o la felce aquilina hanno rallentato a lungo la crescita dei giovani alberi, o in cui non prosperano le specie arboree desiderate, ma ad esempio il nocciolo. Dove la tempesta aveva abbattuto molti abeti rossi, per lo più piantati a quote più basse di quelle a cui loro vorrebbero stare, si sono sviluppate naturalmente foreste miste di latifoglie ricche di specie, quindi molto biodiverse. L'osservazione a lungo termine ha anche rivelato alcuni fatti sorprendenti. Spesso non c'è stata una fase pioniera con specie arboree a crescita rapida come la betulla e il salice. Ciò significa che in molte aree la prole delle specie arboree della foresta caduta è cresciuta semplicemente. Inoltre, nonostante lo sgombero delle aree colpite dal vento, è rimasto molto legno morto, molto di più di quello che si trova normalmente nelle foreste svizzere. Questo è un vantaggio per la biodiversità, poiché il legno morto è un habitat importante. Qui mi inserisco un attimo io a forse anche sdrammatizzare. Io quando leggo queste cose mi viene proprio naturale l'immagine del, che penso molti di voi avranno presente, del Re Leone, il cartone, sì, sto parlando proprio di quello. Quando Simba incontra Timon e Pumba e loro lo aprono a non solo l'essere carnivore, ma invece anche mangiare insetti e altre cose. E quindi c'è quella scena molto carina, mi sa, in cui loro cantano, non mi ricordo, in cui appunto alzano questo tronco mezzo marcio caduto a terra e c'è di tutto, di sotto questi insetti di tutti i colori possibili, immaginabili, sti bachi, sti vermi, le formiche. Ecco, è un po'... Quella è un po' un'immagine simbolica, perché molti in realtà degli insetti che abitano il legno morto, cioè degli insetti, scusate, degli esseri viventi che abitano il legno morto, noi non li vediamo neanche a occhio nudo, la maggior parte probabilmente, però ecco, per rendere l'idea, quella cosa lì, quella prosperità che si vede in quella scena è... forse nel nostro immaginario qualcosa si può avvicinare molto alla realtà. Quindi ecco, tutto ciò per dire che il legno morto è importante. Bene, andiamo avanti. Quindi, grazie a LOTAR, molte foreste si sono arricchite nella struttura, creando nuovi habitat per molte specie animali e vegetali. La diversità degli insetti ecco, la diversità degli insetti è praticamente esplosa dopo la tempesta, come dimostra uno studio del VSL durato 20 anni. Sebbene questo effetto positivo sulla biodiversità sia gradualmente diminuito con la crescita di arbusti e alberi nelle aree colpite dalla tempesta, è continuato 20 anni dopo Vivian e Lothar. Il numero di specie rare nelle aree sottoposte a tempesta era superiore di un terzo rispetto alle foreste non danneggiate. Le aree tempestate non bonificate sono un habitat eccezionale per le specie a rischio, soprattutto negli ultimi stadi di decadimento, afferma Beat Vermelinger, che da decenni studia la diversità degli insetti nelle aree tempestate. Uno studio dell'Istituto Ornitologico Svizzero ha dimostrato che i picchi hanno potuto beneficiare di Lothar in quanto si nutrono di insetti sotto la corteccia degli alberi o nel legno marcio. Ecco, vedete un'altra ragione ancora per cui i picchi sono favoriti da queste condizioni. Quali lezioni sono state apprese? Quando potenti tempeste sconvolgono vaste aree di foresta, nei soprassuoli ricchi di abete rosso si verifica quasi sempre un forte aumento dei coleotteri della corteccia per diversi anni. Questo fenomeno interessa prima la periferia delle aree colpite dalla tempesta e poi anche i popolamenti vicini indeboliti. Se si vogliono proteggere importanti funzioni forestali, gli abeti rossi danneggiati devono essere eliminati il più rapidamente possibile, soprattutto nelle zone basse. Non appena fa più caldo, i coleotteri della corteccia si moltiplicano rapidamente sugli abeti rossi. Tuttavia, le capacità dei servizi forestali non sono generalmente sufficienti per rimuovere in tempo gli abeti rossi infestati durante una tempesta di tale portata. Gli sforzi si concentrano quindi sull'evitare che i coleotteri infestino gli alberi vivi. Nei boschi di protezione dopo le tempeste può essere sensato rimuovere la corteccia dagli abeti che giacciono a terra e lasciarli lì, in quanto ciò può fornire una protezione contro la caduta di massi e valanghe nel medio termine. Questo anche, insomma, tutti aspetti interessanti, no? Della gestione, di tutti i vari modi di gestione del bosco. L'abete rosso non è originario dell'altopiano centrale e la silvicoltura lo ha piantato in modo estensivo per la produzione di legname. Non solo è suscettibile alle tempeste invernali e ai coleotteri della corteccia, ma soffre anche il caldo e la siccità. Oggi sta diventando molto più raro, come dimostra l'inventario forestale nazionale realizzato da WSL. Al contrario, molte specie arboree decidue, considerate resistenti al clima, come le querce, il ciliegio, l'acero di monte e l'acero platanoide, sono ricresciute naturalmente nelle zone colpite dalle tempeste. Come hanno dimostrato diversi studi, una tempesta è un'opportunità per la biodiversità, ad esempio per gli insetti. Per preservarla e promuoverla, solo una parte dell'area dovrebbe essere ripulita dal legname danneggiato dalla tempesta dopo il lancio del vento. Un mosaico di aree sgomberate e non sgomberate dalla tempesta e di foreste intatte è il migliore dal punto di vista della biodiversità. Il legno vecchio morto, in particolare, è un habitat prezioso che è diventato più comune a causa dell'aumento degli eventi estremi negli ultimi anni, quindi tempeste, siccità e bostrico. Quali sono le specie arboree che oggi vengono sempre più piantate e che sono più resistenti alle tempeste e ai cambiamenti climatici? Poiché le latifoglie non hanno foglie in inverno e quindi offrono una superficie minore per l'attacco del vento, sono generalmente meno sensibili alle tempeste invernali rispetto invece alle conifere, una relazione che si accentua con l'aumento dell'altezza degli alberi. Gli alberi decidui tendono inoltre a tollerare meglio il caldo e la siccità. Rispetto a prima del 1990, oggi i forestali svizzeri piantano generalmente molti meno alberi. Al contrario, promuovono le specie desiderabili che si rigenerano naturalmente, fornendo loro luce e proteggendole dalla selvaggina. Oggi, tuttavia, ci sono anche più alberi piantati in aperture forestali protette dalla vegetazione, al fine di salvare le specie arboree desiderate dai rovi che emergono rapidamente e dalla selvaggina affamata in futuro. feliz. Quem gostar de mim tem que ser feliz. Continuiamo, c'è giusto l'ultima parte dell'articolo. Il legno morto fornisce ancora una protezione sufficiente contro i pericoli naturali? Peter Beebe, esperto di boschi di protezione presso l'SLF, ha analizzato come si è sviluppata la protezione dai rischi naturali delle aree temporalesche in montagna. La conclusione è stata che i tronchi e le placche di radici che giacevano in giro hanno contribuito alla protezione contro le valanghe e la caduta di massi per un tempo sorprendentemente lungo. Nel giro di 20 anni, gli alberi che giacevano l'uno sull'altro sono stati compressi da un'altezza di diversi metri a 80 centimetri. Ciò nonostante, in molti casi l'asperità del terreno era sufficiente, cosicché la protezione contro i rischi naturali dopo il lancio del vento è stata meno grave del previsto. Prima del 1990 quasi nessuno avrebbe pensato di non ripulire i boschi di protezione dopo le tempeste. Grazie alla ricerca dell'USL sulle aree soggette a withdraw, si è ampliata la gamma di opzioni di intervento dopo questo tipo di eventi. Oggi i servizi forestali possono valutare meglio quando è opportuno lasciare il legname danneggiato dalle tempeste, sgomberarlo solo parzialmente, oppure combinarlo con la piantumazione e altre misure di protezione. Qual è la situazione alla fine del 2024 e come si comportano oggi le foreste? L'anno 2024 è stato umido e per la maggior parte un periodo di ripresa per le foreste, dopo che la Svizzera ha vissuto una serie di anni secchi dal 2018. Questi hanno colpito gravemente la foresta, e hanno aumentato il tasso di mortalità degli alberi. La foresta in Svizzera è oggi più preparata ad affrontare una tempesta del secolo come Lothar? Perché oggi sull'altopiano centrale ci sono molti meno abeti rossi e più alberi decidui rispetto all'epoca di Lothar? Sì, i coleotteri della corteccia trovano in genere un numero leggermente inferiore di alberi. Tuttavia, il clima più caldo e le condizioni più asciutte porteranno probabilmente ad una propagazione di massa ancora maggiore. Ciò è stato chiaramente dimostrato dall'ultima grande tempesta invernale Burglind del 2018 e dalla forte infestazione di bostrico dal 2018 al 2020 sul versante settentrionale delle Alpi. Le tempeste invernali sono un fenomeno tipico dell'Europa occidentale, settentrionale e centrale. In seguito i coleotteri della corteccia si moltiplicano in abbondanza, inizialmente in abeti rossi spezzati, gettati o indeboliti. Nel corso della riproduzione di massa spesso infestano anche gli abeti rossi sani. In caso di clima caldo, che consente un maggior numero di generazioni di coleotteri, e di siccità, che indebolisce ulteriormente gli abeti rossi, il numero di coleotteri esplode e si riduce solo alcuni anni dopo. Questo schema è stato visto con Vivian nel 1990, poi con Lothar nel 99 e di nuovo con Storm Burglind nel 2018. Si può presumere che prima o poi si verificheranno di nuovo grandi tempeste. Tempeste più gravi di Lothar sono difficili da immaginare in Europa, ma non si possono escludere con i cambiamenti climatici. Tuttavia, gli esperti forestali sono oggi più preparati grazie alle esperienze di Vivian e Lothar, ma anche grazie ai progetti di ricerca a lungo termine del WSL. Quindi questa era Mau Mau, comunque non disperate perché non c'è bisogno di usare Shazam, perché tanto nella pagina del podcast, come sempre, vi metto tutti i titoli delle canzoni che o delle playlist che passo qui su Nervature. Eccoci quindi di nuovo qui su Nervature, mi avvio verso la doveva essere l'ultima parte della puntata, come sempre sono in ritardo e o sono lenta a parlare o mi preparo troppe cose ogni volta, ancora non ho capito quale sia di queste due. Comunque, quindi abbiamo visto fattori ecologici riguardo a cosa succede dopo un uragano, una tempesta che butta giù milioni di alberi e quindi distrugge fondamentalmente foreste, le nostre foreste, e quindi cosa succede a tutti gli esseri viventi che abitano quei luoghi, che magari prosperano, magari invece subiscono danni al riguardo a seguito, diciamo, di questo. Abbiamo visto quindi allora come si procede una volta che arriva una tempesta, come si procede dopo a gestire i boschi danneggiati. Una precisazione: non sto parlando di tutto ciò che sono i danni economici appunto a delle economie montane, né tantomeno i danni, diciamo, del nostro immaginario e culturale, che sicuramente sono importanti per la popolazione che abita le nostre foreste, ma non ne sto parlando perché preferisco focalizzarmi in questo momento su altro. Quindi parlavamo in realtà soprattutto appunto di danni ecologici. Per, diciamo, a quanto pare minimizzare il più possibile tali danni, come abbiamo appena letto nell'articolo del WSL di dicembre, scritto tra l'altro, scusate non ve l'avevo detto, da Thomas questo è difficile, Wolgemut, qualcosa del genere. Quindi, appunto, come abbiamo visto in quest'articolo, i modi di gestione di queste foreste danneggiate sono veramente svariati. Fino a, nell'articolo cita, fino al 1990, comunque fino a un tot di decenni fa, avremmo semplicemente levato il più velocemente possibile tutti gli alberi danneggiati. Oggi invece sappiamo che in realtà da un disastro ambientale di questo tipo si possono anche ricavare delle lezioni sicuramente importanti, ma anche proprio dei miglioramenti dell'ecosistema. Ora, chiaramente sarà un ecosistema squilibrato e ci vorrà per forza di cose un tot di anni per riarrivare a un equilibrio, qualche decina d'anni, però sicuramente un cambiamento, anche se così repentino, delle condizioni ambientali di un certo luogo può favorire effettivamente la biodiversità. Biodiversità alla quale sappiamo ormai, spero tutte e tutti, ma comunque ripetiamolo, che è uno dei fattori fondamentali per la resilienza di un ecosistema. E questa è un'informazione molto importante su qualsiasi ambito, secondo me anche sugli ambiti molto molto umani, molto molto antropici. Tra l'altro può essere anche intesa in modo un po' più metaforico, ma per ora rimaniamo invece su quello un po' più pratico. Quindi, appunto, un ambiente, un sistema in cui c'è una grande ricchezza di specie, sia vegetali che animali che fungine, porta per forza di cose a un maggiore equilibrio. Infatti, appunto, come dicevamo prima, le peccetti italiane hanno subito e stanno subendo così tanti danni anche perché, appunto, erano monospecifiche, quindi la biodiversità all'interno era veramente veramente ridotta. Come allora l'uomo può favorire la biodiversità? Cercando di mantenere più ambienti diversi possibile. Quindi noi, a mio parere personale, per come proprio è strutturato il nostro cervello, non siamo in grado di davvero classificare, dire tutti gli elementi viventi e non che ci sono in un ecosistema, e soprattutto identificare tutte le relazioni fra questi vari elementi. Perciò quello che possiamo fare è affidarci il più possibile, secondo me, alla natura. Quindi, cosa intendo nel pratico? Come diceva anche questo articolo, se appunto ci sono tanti schianti da vento e delle foreste sono in grossissima parte appunto sradicate, allora cosa faccio? Lascio un po' di alberi a terra, alcuni li taglio, alcuni li lascio ma li levo la corteccia, alcuni li sposto e magari li metto da una parte, altri invece sono ancora in piedi, e quindi una biodiversità di ambienti che in quanto tale diciamo con tutte le proprie caratteristiche di ognuno di questi ambienti sarà capace di ospitare più diversità. Quindi io appunto non avrebbe senso che io mi metto in quanto essere umano a dire ok, servono tot coccinelle, tot coleotteri, tot api e tot vespe e ce li metto lì perché non farò mai un buon lavoro, mentre invece è meglio appunto creare delle condizioni per cui poi gli esseri viventi fanno da sé. Questa è un po' la mia opinione, che ho trovato però in parte anche, se non, perlomeno in parte, ecco, confermata nell'articolo che abbiamo appena letto. Io adesso vorrei purtroppo velocemente addentrarmi, ma appunto non tanto addentrarmi quanto nominare, ecco, citare un altro aspetto di questo questi eventi, sempre riguardante appunto alla gestione, riguardante la gestione che si è fatto e si sta continuando a fare di questi boschi danneggiati, in particolare riguardo a proprio i cantieri boschivi e la sicurezza su questi cantieri. Allora mi metto però magari un po' di musica di sottofondo perché sennò voi mi smettete di ascoltare, non mi ascoltate mai più, mi odiate probabilmente. Allora, quindi come ci si può immaginare dalla devastazione che c'è stata a seguito di Vaia, comunque nonostante tutto il discorso abbiamo appena fatto di alcuni alberi lasciarli in loco eccetera, comunque molti andavano levati. Alcuni andavano levati e poi c'era bisogno di ricreare tutta la carrabilità, diciamo, delle foreste, appunto sempre di nuovo anche per un discorso di sicurezza, quindi far sì che le montagne fossero accessibili anche con mezzi da lavoro, appunto mezzi grossi, proprio per sia levare alberi sia appunto ricreare un'accessibilità, ecco. Nello specifico, nel caso delle nostre foreste, è stata appunto la devastazione di Vaia è stata molto molto grande e perciò oltre a tante, comunque numerose aziende italiane, in realtà sono arrivate aziende boschive, intendo, sono arrivate anche tantissime aziende boschive straniere. Proprio perché la quantità di lavoro che diciamo avevamo da offrire in quel frangente era veramente veramente alta, con un totale si stima di circa 300 aziende nel totale, fra italiane e straniere. Purtroppo le condizioni di lavoro erano molto difficili, perché un conto è arrivare in una foresta e dover fare dei tagli perché ci sono magari degli alberi infestati, in condizioni normali intendo, in una foresta sana. Un conto è invece quando proprio ettari e ettari di alberi sono stesi al suolo, proprio perché vengono stesi, cioè si accasciano l'uno sull'altro, sono tutti accatastati. Sono tutti instabili, proprio come il gioco degli Shanghai, quando levi un bastoncino cascano gli altri, quindi sono condizioni oggettivamente molto difficili per gli operatori boschivi. Questo però ovviamente non può giustificare la pericolosità dei cantieri, perché comunque le aziende che vanno a agire in queste condizioni, ma in generale in tutte le condizioni possibili, devono garantire una sicurezza sul lavoro ovviamente appunto ai loro dipendenti. Infatti, in questo caso ci sono state diverse morti sul lavoro. Per esempio nel 2021 ce n'è stati, nel 2020 nessuna, nel 2021 invece ce ne sono state due, e poi anche, per esempio, anche nell'ultimo anno, nel 2024, ce n'è state veramente svariate. A marzo, a maggio ce n'è state veramente svariate, a settembre, quindi proprio è una tendenza che non si sta interrompendo, e questa ovviamente è la cosa più grave di tutte. Da un articolo avevo trovato, c'era un'intervista a Dario Huber, che è il direttore della UOPSAL, ovvero sarebbe l'unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e dava alcuni dati. Ora chiaramente teniamo di conto della fonte, che è chiaramente estremamente istituzionale, perciò a mio parere potrebbe essere da prendere con le pinze. Comunque, appunto, riportava alcuni dati. Ovvero 300 aziende, appunto, come si diceva, nel totale. Poi a subito dopo la tempesta Vaia c'è stato, a sue parole, un forte impegno per la formazione dei lavoratori boschivi, appunto, che saranno entrati in campo nei lavori di taglio, formazione la quale in realtà era un progetto iniziato già nel 2017, quindi prima della tempesta, e una volta ovviamente che si è verificata da Vaia è stato implementato, e quindi c'è stata una formazione specializzata proprio ai lavoratori, proprio per permettergli meglio di operare in quelle condizioni. C'è stata anche una condivisione di saperi con aziende estere, in particolare svizzere, però devo essere sincera, non sono riuscita a reperire quali tipi di saperi, cioè chiaramente riguardanti al lavoro in queste condizioni estreme, ma avrei voluto approfondire proprio per capire meglio di cosa si tratta, invece non ho trovato informazioni. Comunque quello che veniva riportato in intervista è che, siccome in Svizzera c'è tantissime più foreste, e siccome anche, come abbiamo visto prima, ci sono già state tempeste disastrose come Vaia e anche di più, i lavoratori di lì e tutte le aziende, insomma tutta la filiera del taglio boschivo, è più specializzata nell'ambito, e quindi c'è stato a quanto pare una condivisione dei saperi. Poi sempre Dario Huber parlava nell'intervista dei controlli alla sicurezza, appunto, dei cantieri. Dice che, ripeto, le aziende coinvolte erano 300 e invece i controlli sono stati fatti fino al 2021. Scusate, non l'avevo detto, questo articolo che vi cito è del 2021, quindi purtroppo un po' vecchio. Comunque, ecco, i controlli dal 2018 al 2021 sono stati 20, che... cioè manca poco, si contano sulle dita di due mani, quindi sicuramente pochi, sulle aziende però italiane. Quindi l'Italia ha potuto fare controlli sulle aziende italiane, su quelle estere non era chiaro. Diceva sì, i controlli si fanno ma sono diversi perché è più difficile. Boh, non si sa bene come, perché vabbè, non è specificato. E poi infine cita il fatto che l'UOPSAL, quindi appunto la Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, investe il suo budget molto più nei problemi anche legali a seguito degli infortuni e delle morti sul lavoro, molto più di quanto invece fa per la prevenzione. Questo magari ci si poteva aspettare, però ecco, sentirlo dire proprio dal direttore sicuramente conferma questo fatto. Addirittura più del 50%, forse anche più del 70% di questi soldi non è destinato alla prevenzione. Questo era appunto questo argomento, ci tenevo ovviamente a portarlo perché mi sembrava decisamente, forse anche, insomma, molto molto importante. Non voglio dire più importante o meno del resto, perché non si sta facendo gerarchie, però vi posso dire che comunque è difficile anche ritrovare a distanza di tempo le informazioni, però continuo le mie ricerche, per così dire, quindi eventualmente mi risentirete parlare di questo e di vari aggiornamenti. Allora, adesso sì che siamo davvero arrivate alla ultimissima parte di questa puntata. Mi sono già infatti dilungata tanto come avevo previsto, infatti. Quindi l'ultima parte in cui vi leggerò due capitoli di due libri diversi. Uno è di nuovo sempre il solito Sotto Corteccia che abbiamo già citato prima, e l'altro invece è Arboreto Selvatico di Rigoni Stern. Entrambi questi capitoli parlano di due tipi diversi, esemplari, individui diversi di abete rosso, quindi peccio. E così, appunto, per finire anche un po' più con leggerezza, mi piace riportarvi queste due letture, perché appunto le piante intorno a noi sono fonte di vita per noi e per tutto il resto della nostra terra, però per noi esseri umani sono anche degli amici, amiche a volte, o comunque dei ricordi, delle sensazioni, delle emozioni, e quindi mi piace a volte anche sollecitarvi in questo senso. Il mio Pino. Riagganciato il telefono, fatta finalmente la doccia e bevuto un rinfrescante bicchiere d'acqua fresca con sciroppo di sambuco di mia produzione, mi sono disteso sul divano. Ho chiuso gli occhi e, come talvolta capita quando mi lascio andare alla piacevole e malinconica deriva dei ricordi, per qualche istante sono tornato bambino. Attorno a me il paesaggio monotono della pianura padana, nell'aria la voce dei miei nonni, Luigi e Luisa, dietro di me la loro vecchia casa, prezioso nido carico d'affetto e calore. Di fronte ai miei occhi un albero, una conifera che tutti, io compreso, chiamavamo pino, ma che in realtà era un abete rosso. Quante ore della mia giovane vita avevo passato sotto le fronde di quel peccio. Un povero abete piantato lontanissimo dal suo habitat naturale, regalato a mio nonno da qualche agricoltore che frequentava vivai pubblici e che lui aveva piantato fronte strada, quasi come un simbolo, quando aveva finalmente raggiunto il sogno di una vita, la casa di proprietà. Costretto alle fitte nebbie del Po e al caldo umido delle torride estati padane, l'abete aveva probabilmente sofferto molto nei suoi primi anni in giardino, ma poi era cresciuto caparbio, diritto, con una bella chioma conica, simmetrica e folta, che mio nonno aveva sapientemente potato, creando sotto di essa lo spazio d'ombra e di gioco per quel nipote che adorava e che doveva accudire. Il mio primo ricordo è legato a un'altalena appesa a uno dei suoi rami e al profumo di resina che, dondolandomi fino a sfiorarne gli aghi, mi riempiva le narici di odore buono e pungente. Ricordo poi la terra argillosa nella quale il mio pino, così lo chiamavo, affondava le radici. Terra che scavavo e rimescolavo in continuazione, costruendo le montagne e laghi immaginari. Giocavo sotto quell'abete ininterrottamente per pomeriggi interi, sorvegliato a vista dalla nonna e dalle sue amiche, che a pochi passi dall'albero si trovavano a chiacchierare e a scambiarsi pettegolezzi. E ancora, negli anni concitati e inquieti dell'adolescenza, l'ombra di quella pianta era stata rifugio solitario, luogo solo mio per letture e delucubrazioni. Tuttora credo che l'imprinting ricevuto da quell'albero alpino cresciuto fuori zona abbia avuto un ruolo fondamentale nelle mie scelte, o almeno così mi piace immaginare. Come se le gocce appiccicose di resina, che spesso mi si attaccavano ai vestiti facendo brontolare mia nonna, fossero in realtà il segno premonitore di uno stretto legame che andava nascendo con il bosco e con quella specie in particolare. Dopo tanti anni da quelle buche nella terra sotto le fronde del mio pino abete, dopo la scelta universitaria e un passo dal conseguimento della laurea triennale in scienze forestali all'Università di Firenze, mi ero infatti ritrovato nel regno dell'abete rosso, quello vero, il Trentino, la Val di Fiemme, scelta per il tirocinio obbligatorio. Un'esperienza di pochi mesi, ma cruciale per la mia formazione. Un altro imprinting strettamente connesso all'abete rosso. Dopo 3 anni di tanta teoria, di ecologia, di selvicoltura, dendrometria, tecnologia del legno e pianificazione, materie che più di tutte mi avevano affascinato sui banchi dell'università, lassù, tra i pecci e gli uffici profumati di bosco della magnifica comunità di Fiemme, avevo capito davvero cosa fa di mestiere un dottore forestale, che cosa significa nel concreto gestione forestale sostenibile, che cos'è una filiera locale di quella materia prima rinnovabile, il legno, che già sentivo di amare. Il mio tutor, Giorgio Beman, un giorno mi aveva detto una frase che è rimasta impressa nella mia memoria. Qui la gente parla di bosco e di legno ogni giorno, al bar, nelle case, nelle piazze. Il bosco non è solo natura, è parte integrante della comunità. In quei giorni tra gli abeti rossi avevo compreso il mio vero interesse, che non era tanto la botanica, come pensavo all'inizio del percorso di studi, ma l'inevitabile e necessaria relazione tra esseri umani e risorse naturali, fatta di alti e bassi, di errori e intuizioni, della costante ricerca di un difficile equilibrio. Qué bonito y sabroso. Il mio pino abete oggi non c'è più. Come tanti degli abeti rossi piantati fuori zona nei giardini dei paesi lungo il Po, aveva iniziato ben presto a dare segni di forte sofferenza. Ma, devo essere sincero, abbatterlo non era stato, come temevo, un colpo al cuore. Nel frattempo avevo conseguito anche la laurea magistrale e la passione per le scienze forestali era scoppiata definitivamente in me. Mi ero detto che il mio albero, in fondo, non sarebbe mai morto, perché semplicemente l'avrei trasformato in uno o più manufatti utili. E così è stato. La vecchia casa dei nonni, che abbiamo ristrutturato e oggi è abitata da mia madre, ospita una libreria e due mensole in legno e abete rosso. Il mio pino abete, testimone della giovinezza, adesso sorregge libri preziosi. E allora leggo quest'altra ultima lettura, avete sentito Luigi Torreggiani che vi raccontava del suo pino, che in realtà appunto era un abete rosso, un peccio, e invece adesso vi prendo dal libro Arboreto selvatico di Regoni Stern un altro capitolo sempre a proposito di questa pianta. L'abete. Albero della nascita, e a lui era dedicato il primo giorno dell'anno. Il peccio, Picea excelsa link o Picea habies o abete rosso, è l'albero che è sempre stato presente e mi accompagna nella vita. Nella casa dove sono nato e ho trascorso la mia giovinezza, i mobili, le suppellette, i pavimenti, le scale, le grandi e geometriche capriate del letto, tutto era stato ricavato dai pecci dei nostri boschi. Erano alberi feriti dalla guerra che per necessità di coltura tra il 1919 e il 22 si dovette abbattere. Da ragazzi alla festa degli alberi erano sempre piantine di peccio che mettevamo a dimora nelle ampie chiarie causate dai combattimenti. Come sempre di peccio erano centinaia di migliaia le piantine che i miei compaesani piantavano appena la neve liberava il terreno. C'erano diversi vivai, orti forestali li chiamavamo, ubicati in località distinte per clima e altitudine al fine di poter procedere nel lavoro di semina e di rimboschimento in armonia con la stagione meteorologica. I semi venivano dalle foreste della Val di Fiemme, che, dicono gli esperti, sono le più belle e danno il miglior legname delle Alpi. Quello del piantar piantine e del recupero dei materiali bellici è stato il principale lavoro della nostra gente per molti anni. Ma tante volte, e anzi sempre, scavando le piccole buche per il rimboschimento assieme alla terra e ai sassi, uscivano cartucce, bombe inesplose, resti di caduti perché ovunque era stato campo di battaglia. Ora, a distanza di 70 anni, ci si rende conto che fu errore impiantare boschi puri di peccio. La monospecie e la coetaneità hanno un equilibrio molto fragile perché parassiti di ogni genere, malattie fungine, insetti e inclemenze stagionali possono in breve tempo rendere vani lavoro e capitale. Ma allora si trattava di ricostruire in fretta la foresta distrutta e di coprire così i vestosi disastri della guerra. Anche nel mio brolo assieme ad altre diverse specie d'alberi di alto fusto, ci sono i pecci. Crescono rigogliosi tanto che ormai, anche se sono nel terreno più in basso, mi riducono lo sguardo sul paesaggio. Quando erano ancora piccoli mi era molto comodo raccogliere da loro gli sciami delle mie api. Poi, 15 anni fa, vennero i fringuelli a fare nidi tra i loro rami a ogni primavera, che regolarmente, alla schiusa, le cornacchie distruggevano anche se restavano allerta. Quest'anno una coppia di tordi è stata scacciata da una coppia di cesene che ora, mentre scrivo, porta vermi e larve ai nidiacei, che sgraziatamente stridono. Il pecce resta pur sempre l'albero per eccellenza delle nostre foreste alpine e da lui hanno tratto da vivere tante famiglie di montanari che dal suo legno ricavavano oggetti che poi venivano commerciati in paesi anche lontani. Fino alla scoperta e all'uso della plastica, attorno alle case delle nostre contrade c'era sempre castelli di assicelle e doghe messe a essiccare al sole. E poi da queste, quando il lupo mangiava l'inverno, si ricavavano mastelli, secchie, tini, fasce per il formaggio, scatole di varie misure per le farmacie e gli orefici. Rari pecci con particolari caratteristiche, denudati dalla corteccia, mostrano delle piccole verruche regolarmente distribuite lungo il tronco, venivano e vengono chiamati alberi di risonanza e abbattuti, stagionati e segati in maniera accurata e seguendo le fasi lunari. L'abbattimento deve essere fatto subito dopo il plenilunio e dopo qualche anno il tronco segato in luna calante perché così il legno, materiale vivissimo, risulta più stabile. Di queste assi così ottenute, i liutai si servono per costruire le casse degli strumenti a corda. La foresta pura di peccio è uniforme, cupa, qualche volta priva di sottobosco o con sottobosco povero. Gli alberi si alzano diritti come colonne e la luce filtra tra loro creando forti contrasti come in una cattedrale gotica. D'inverno, a volte, la neve rimane sospesa sui rami per più giorni e quando scivola al suolo crea delle trincee attorno ai tronchi. Le abbondanti nevicate primaverili accumulano una grande quantità di neve pesante sulle cime uniformi del bosco e se a queste nevicate si accompagna forte vento, il fenomeno provoca grandi schianti di tronchi e sradicamenti, con rumori violenti e improvvisi, boati, scrosci e nuvole di neve. E chi passerà per una strada forestale o per una mulattiera in tali momenti proverà profonda emozione e anche spavento. Il peccio, della famiglia delle pinacee, da molti e non solo dai cittadini sprovveduti, erroneamente è chiamato pino. Ma altri alberi sono i pini. Questo peccio, o abete rosso, è albero di primaria grandezza, alto talvolta più di 40 metri. È longevo tanto che in alcune foreste ancora intatte se ne possono trovare 4 o 5 secoli di età. I rami sono disposti a piramide con le estremità rivolte verso l'alto. Nelle quote più alte o nelle regioni del nord assumono forma colonnare perché dalla neve e per lungo tempo i loro rami vengono schiacciati contro il tronco. La corteccia è rossastra e ha piccole squame, invecchiando si fessura e si dispone a placche. Le foglie aghiformi lunghe 2-3 cm sono disposte tutte intorno ai ramoli. I fiori maschili sui rami più giovani sono amenti giallo-rossastri, i femminili di un bel colore rosso vivo. Gli stroboli sono penduli, lunghi anche 20 cm e cadono al suolo prima di aprirsi. Ma gli scolattoli comodamente seduti tra i rami amano desquamarli per mangiarne i semi e a terra lasciano cadere il torso nudo. I semi sono bruni e grandi come un grano di miglio, con un'ala lunga 15 mm. Quest'albero ama l'ombra, i terreni sciolti e acidi, forma anche boschi misti con il faggio e l'abete bianco, e nelle quote più alte con il larice. Riveste le montagne tra gli 800 e i 2000 metri ed è specie tipicamente boreale in quanto la sua distribuzione va dalle Alpi alle montagne più alte della Grecia, dalla Transilvania alla Scandinavia fino oltre il circolo polare. Narrano i poeti greci e latini che il peccio era albero pronubo e sacro a Imeneo perché dal suo legno resinoso si ricavavano le tede per illuminare il talamo nuziale. L'abete bianco, Vabbè, qui parla poi dell'abete bianco, perché anche l'abete bianco è comunemente chiamato abete, invece l'abete rosso è chiamato sia abete che peccio. A noi ci interessava la parte dell'abete rosso, e quindi questo era appunto Rigoni Stern nel suo Arboreto Selvatico. Quindi eccoci qua giunti alla fine. Io direi che mi piacerebbe tantissimo salutarvi con un ultimissimissimo contributo, giuro non ce n'è più altri dopo, e sarebbe una, diciamo, lo riprendo da una vecchia puntata dell'anno scorso, di quasi un anno fa, un po' meno, in cui ero qui piacevolmente accompagnata da diverse presenze, amiche e amici, e avevamo fatto varie letture, una puntata molto cazzarellona, devo dire la verità, molto divertente, e ne ho estratto una parte, che è un brano di Bukowski, perché cavolo ci dai un brano di Bukowski, mi chiederete, perché semplicemente parla di un albero di Natale. E l'albero di Natale, ormai tutte voi saprete che spesso è un abete rosso, appunto, a volte un abete bianco, ma a volte invece un abete rosso. Quindi io vi saluterei con quest'ultimo contributino, e non so se ci leggo anche una musica in fondo, ora vediamo un po' come va e che ore sono soprattutto. In ogni caso, con la mia voce ci risentiremo settimana prossima, sempre lunedì alle 19, sempre con Nervature, e qui Ado vi riaccompagnerà di nuovo per un'oretta e mezzo, come vedete di solito anche di più. Tra l'altro settimana prossima sarò con, attenzione posso anche farvi l'anticipazione stavolta, sarò con una ospite qui in regia e vi parleremo di erbacee perenni, in generale anche di piante perenni, non solo erbacee, e di lavori in giardino di gennaio, anche se saremo agli sgoccioli di gennaio, e di piante storie. Quindi mi raccomando, non perdete la puntata di settimana prossima, e quindi ci risentiremo fra 7 giorni e buona continuazione di serata, rimanete tutte e tutti connesse al palinsesto di Wombat. Hans Bukowski, nato in Germania nel 1920, morto nel 94 a San Pedro, presso Los Angeles. A Natale invitai Betty. Preparò il tacchino e ci mettemmo a bere. A Betty piacevano gli alberi di Natale giganti e il nostro doveva essere alto 2 metri e largo 1, coperto di luci, palle di vetro, orpelli, stronzate varie. Scolammo un paio di quinti di whisky, facemmo l'amore, mangiammo il nostro tacchino, ricominciamo a bere. Il supporto era inchiodato male, non era abbastanza grande per quell'albero. Io continuavo a sistemarlo, Betty si stese sul letto e crollò. Io bevevo sul pavimento in mutande. Beh, poi mi stesi anch'io, chiusi gli occhi. Qualcosa mi svegliò, aprì gli occhi appena in tempo per vedere l'albero gigante, pieno di lucine accese, piegarsi lentamente verso di me, con la stella cometa puntata addosso come una spada. Non capivo bene cosa stesse succedendo, sembrava la fine del mondo, non riuscivo a muovermi, i rami dell'albero mi abbracciavano, ero sotto, le lucine scottavano. Oh, Gesù Cristo, abbi pietà, Signore, aiutami, Gesù, aiuto! Le lucine mi stavano ustionando, rotolai di fianco, verso sinistra, non riuscii a tirarmi fuori, allora rotolai verso destra. Ah! Finalmente riuscii a rotolare fuori, Betty si era alzata, era lì, in piedi. Che cos'è successo? Che cosa c'è? Ma non ci vedi, quel fottuto albero ha cercato di ammazzarmi! Che cosa? Ma sì, guardami! Ero pieno di scottature rosse. Oh, povero caro. Mi alzai e andai a togliere la spina dalla presa. Le luci si spensero. Quel coso era morto. Oh, il mio povero albero. Il tuo povero albero. Sì, dai, era così carino. Domani mattina lo rimetterò in piedi. Adesso non mi fido. Lo lascio riposare per il resto della notte. Non le piacque. La sentivo arrivare. La lite, e così sistemai quel coso in piedi dietro una sedia e riaccesi le lucine. Se quel coso le avesse bruciato le tette o il culo e l'avrebbe buttato giù dalla finestra, pensai. Pensai anche che mi stavo comportando davvero signore. Alcuni giorni dopo Natale passai a trovare Betty. Era lì, seduta nella sua stanza, ubriaca, alle 8:45 di mattina. Sembrava molto giù, ma d'altra parte nemmeno io ero particolarmente in forma. Apparentemente ciascun ospite dell'albergo le aveva regalato un quinto. C'era di tutto, vino, vodka, whisky, scotch, le marche più a buon mercato, le bottiglie riempivano la stanza. Quegli idioti, è possibile che non ci arrivino? Creperai. Se bevi tutta questa roba, creperai. Betty si limitò a guardarmi, quello sguardo mi disse tutto quello che c'era da dire. Aveva due figli che non andavano mai a trovarla, non le scrivevano mai. Faceva le pulizie in un albergo di quinta categoria. Quando l'avevo conosciuta portava vestiti eleganti. Aveva due belle caviglie sottili messe in risalto da scarpe costose ed era soda, piena, quasi bella. Con gli occhi luminosi, allegri, rideva sempre. Aveva divorziato da un marito ricco. Poi lui era morto in un incidente di macchina, ubriaco, arso vivo nel Connecticut. Non riuscirai mai a domarla, mi dicevano tutti. Eccola lì. Ma io potevo aiutarla. Senti, le disse, la prendo io, questa roba. Voglio dire, ti darò una bottiglia ogni tanto. Prometto che non berrò niente. Lascia stare quelle bottiglie, disse Betty. Non mi guardò. La sua stanza era all'ultimo piano e lei stava seduta in poltrona vicino alla finestra a guardare il traffico del mattino. Le andai vicino. Senti, non sto più in piedi, devo andare a casa, ma per l'amor di Dio, vacci piano con quella roba. Certo, disse lei. Mi chinai e la salutai con un bacio. Hans Bukowski, nato in Germania. Libertà, vieni con noi se quello che vuoi è fare in sera una festa balcanica. Tell me that you're ready for the reggae caravan. Tell me that you're ready for this journey. Everybody is just getting ready now. Tell me that you're ready to come with us. Tell me that you're we could be stand, we could be fat against the wicked ones. Today, tomorrow, and each and every night. We could be jump, we could be tight, we could be dancing through the morning light. Tell me that you're ready for the reggae caravan. Tell me that you're ready for this journey. Everybody is just getting ready now. Tell me that you're ready to come with us. Tell me that you're ready for this reggae caravan. We got brothers and sisters everywhere. We want respect, nothing else. We want no borders, nowhere. Tell me that you're ready for the reggae caravan. Salta, jump on board. La caravana sta partendo. Put on un po' pensar trip. Come with us. Tell me that you're ready for the reggae caravan. We are the reggae caravan, and we are traveling through the land, the land of Babylon. This journey, everybody is just getting ready now. Tell me that you're ready to come with us. Tell me that you're ready for this reggae caravan.